Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon sabato a tutti. Oggi parliamo di digital transformation, parliamo di come le aziende manifatturiere devono diventare digitali, stanno diventando digitali e soprattutto come l'information technology e l'automazione diventano una cosa sola. Tutto questo va anche a finire nel proseguire il nostro dibattito sui robot, sulla tassa sui robot. Abbiamo tantissime email che ci sono arrivate dagli ascoltatori, ne leggeremo alcune. Se volete proseguire a scriverci potete farlo a fabbrica@radio24.it. Il nostro ospite di oggi è Stefano Venturi, che è l'amministratore delegato di HPE in Italia, è una persona molto impegnata nella digital transformation, perché a parte l'incarico societario ha una sua storia personale. Lui è anche presidente della Camera di Commercio americana in Italia, in passato ha guidato Cisco e i processi delle aziende manifatturiere li conosce molto bene. Il nostro tema è appunto come l'azienda produttiva dal digitale può fare più utili e più ricavi. La puntata di domani avrà la case history della Phoenix, che è un'azienda che fa stampi per l'estrusione dei metalli, che è molto digitalizzata e che da questa forte digitalizzazione e automazione ne ha tratto non solo valore economico, ma anche aumento dei posti di lavoro, a testimonianza che i robot non sono il nemico che tante volte si dipinge sui giornali, perché uno magari fa del sensazionalismo, dice oddio arrivano i robot, portano i posti di lavoro e la gente lo segue. L'automazione in realtà crea posti di lavoro. Ma salutiamo intanto Stefano Venturi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, cosa vuol dire digital transformation delle aziende? È un termine molto ampio, però io lo concretizzerei su veramente pochi punti. Digital transformation vuol dire innanzitutto usare quanto più possibile gli strumenti digitali per portare l'azienda più vicino ai propri clienti, per disintermediare tutto il flusso di informazioni che ogni azienda ha tra sé e la propria clientela, in entrambe le direzioni, quindi non solo comunicare con i clienti ma ricevere anche indicazioni. E quello oggi però si estende anche all'Internet of Things, ai sensori che abbiamo dentro le aziende e anche fuori, perché le persone che vanno in giro, che chattano e che lavorano sui social network diventano come dei sensori che ci danno dei dati. Allora digital transformation vuol dire cominciare a parlare con questi dati, cominciare a interagire e includerli nel processo di business. Alla fine è un tema non solo tecnologico ma soprattutto culturale da parte del management. Certo, perché poi dalla digital transformation trae origine un mutamento della natura dell'azienda. Domani parleremo appunto di questa Phoenix che grazie al digitale e all'automazione è diventata un'azienda che fa dei progetti su misura per i clienti, ogni cliente gli dà il suo stampo e viene realizzato su misura. Questo gli permette di aumentare il valore aggiunto, 80 milioni di euro, ci sono 20% di EBITDA, di aumentare il numero dei dipendenti, con quella cifra danno lavoro a ben 500 persone, di cui solo 200 sono operai, ma molti sono tecnici e ingegneri che disegnano e progettano gli stampi su misura del cliente. Questo senza il digitale, senza la raccolta di dati, senza il monitoraggio continuo non sarebbe stato possibile. Esattamente, esattamente. Il digitale permette quella flessibilità e anche migliore utilizzo delle risorse fisse che uno ha in azienda, che altrimenti non si può avere. Oggi la clientela chiede personalizzazione. Se andiamo a andare a rispolverare la vecchia teoria, perché poi è Pareto, della long tail che Anderson ha rivisto nel mondo del digitale, dove si va a vedere che il volume della coda lunga dei clienti che sono quelli frammentati, molto piccoli, che hanno bisogno ognuno di una cosa leggermente diversa, ebbene oggi comincia a valere quanto la parte iniziale della curva dei pochi grandi clienti che erano una volta erano quelli che ci facevano fare l'80% del fatturato. Oggi dobbiamo invece servire tutta la long tail e quindi c'è bisogno di flessibilità, di personalizzazione, di ricevere feedback e questo va fatto però in modo leggero, perché sennò torniamo a fare gli artigiani manuali e che non è più sostenibile in un mondo competitivo. Quindi la digital transformation, quindi inserire il digitale con questo, attraverso questo, modificare anche i processi di business, i processi produttivi, ci permette di servire questa long tail dando prodotti e servizi di qualità e facendo buoni margini e creando quindi opportunità per le persone e posti di lavoro. Ecco, ma il problema è che molti non capiscono perché è una via obbligata. Noi parliamo tanto di questi temi e sembra che tutti lo facciano. In realtà, per esempio in Italia, i macchinari sono molto vecchi, ancora la maggior parte delle macchine non sono interconnessi. Leggevo dei dati che sono usciti sulla Lombardia. L'età media delle macchine delle aziende produttive è di 12 anni e 8 mesi e solo il 13% delle macchine è più giovane di 5 anni e oltre l'80% delle aziende non sono interconnesse al loro interno. Ma allora, quello dell'anzianità del nostro parco, chiamiamolo produttivo, di automazione è un problema relativo. Perché dico questo? Perché oggi fare manufacturing 4.0 vuol dire collegare in rete i sensori e portarli verso un'intelligenza di big data che analizza questi dati e prende delle azioni. Ora, inserire sensori oggi lo si può fare anche facendo retrofitting su macchine esistenti senza fare investimenti enormi, e quindi l'intervento sul macchinario è veramente limitato, sicuramente ce ne sarà bisogno ma è limitato. In più la legge di cui oggi possono godere le aziende manifatturiere del superammortamento aiuta anche questo, aiuta sia a fare retrofitting su ciò che si può aggiornare, sia a aggiornare quello che è veramente vecchio, però è veramente poco quello che si può escludere dal manufacturing 4.0, e ricordo che le aziende italiane sono molto automatizzate e quindi è un ottimo terreno per arrivare tra i primi nel mondo, entrare nel mondo di Industry 4.0. Bene, senta, dobbiamo interromperci un attimo perché qui c'è una bella scheda sulla digital transformation. Ma che cos'è in realtà la digital transformation di cui si parla tanto? In poche parole, è la trasformazione della fabbrica tradizionale in una fabbrica intelligente, automatizzata e interconnessa, la Smart Factory. Per tutte le aziende produttive si tratta di un passaggio obbligato, non solo perché offre vantaggi evidenti e quantificabili, ma anche perché tutto il mondo va in quella direzione. Bisogna seguirlo, se non si vuole rimanere esclusi e quindi fallire, scomparire, venir cancellati, forse anche nel ricordo. La fabbrica dei prossimi anni sarà digitalizzata oppure non esisterà. Ma la Smart Factory non è solo un obbligo, è anche molto conveniente. I numeri che lo dimostrerebbero, il condizionale d'obbligo, trattandosi di proiezioni, sono sintetizzati da uno studio di Bank of America. Entro il 2025, il 45% delle operazioni in fabbrica verranno eseguite da robot e strumenti di automazione avanzati, il cui costo si è ridotto del 27% negli ultimi 10 anni. Grazie a questo incremento di robotica, la produttività aumenterà del 17% e i costi industriali si ridurranno tra il 18 e il 33%. Nella fabbrica del futuro, information technology e automazione saranno completamente integrate. Gli impianti e i materiali verranno dotati di sensori per identificarli e rilevarne la posizione e lo stato. I dati saranno analizzati in tempo reale per monitorare il processo produttivo. I robot saranno progettati per supportare i lavoratori. Tutte le risorse produttive saranno interconnesse su reti intelligenti e interoperabili. Anche le unità non strettamente produttive, come ricerca e sviluppo, vendite, partner, fornitori, produttori e clienti, saranno connesse e comunicheranno attraverso un unico sistema digitale. In questo modo, l'intero processo produttivo verrà gestito e monitorato in tempo reale. Tutto ciò in un mondo sempre più orientato a seguire i desideri del cliente, che vuole prodotti costruiti su misura per lui, magari uno diverso dall'altro. La cosiddetta personalizzazione di massa, che è uno degli imperativi categorici del mondo 4.0, insieme al just in time e al magazzino completamente vuoto. Benvenuti nell'era della digital transformation. Bene, ci avviamo verso un'interruzione per la pausa, pubblicità e avvisi sul traffico. Parleremo dopo dell'automazione della tassa sui robot. Potete scriverci a fabbrica@radio24.it. Ma lei, Venturi, che cosa pensa di questa proposta sulla tassa dei robot? Ma io credo che sia frutto di una ansia collettiva dei robot che portano via i posti di lavoro. Oggi non ci sono dati in questo senso. Io sono uno di quelli che crede che in realtà creano posti di lavoro, perché c'è da trasformare il sistema. Abbiamo una grande opportunità per rimettere in gioco il nostro sistema formativo, rimettere in gioco anche il terzo settore, riformare le persone, riformare, di fare di nuovo la formazione agli italiani, essere tra i primi. E mettere una tassa è un'attività di retroguardia che farà sì che il nostro paese diventerà retroguardia anche nel manufatto. L'ha proposto Bill Gates, lo vorrebbe fare a livello mondiale. È un po' di difficile attuazione, perché ci sarà sempre quello che la tassa non la mette, allora c'è il rischio che poi quello lì si prenda tutte le fabbriche, perché finché non c'è il governo mondiale, ovviamente gli stati si fanno anche concorrenza sul piano fiscale. Lo facciamo anche noi, visto che facciamo venire qui i ricconi che vogliono pagare solo 100.000 euro, ma ne parliamo dopo avvisi sul traffico e pubblicità. Restate con noi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Stefano Venturi, che è un interlocutore che a noi piace, perché il mondo dell'automazione, delle aziende, il mondo delle aziende manifatturiere, lui lo conosce molto bene per le molteplici vesti che ha ricoperto nella sua lunga carriera. Sono arrivate un po' di mail anche molto qualificate sul tema dei robot. Per esempio, l'ascoltatore Claudio Bongio ci dice: chi le scrive era nel gruppo che nel 1975-76 ha progettato il RoboGate con robot a comando idraulico Unimate. Anni fa, 1996, mentre lavoravo presso la FATA Automation, ho partecipato a un concorso di idee indetto dalla Volkswagen per la fabbricazione di 3.000 vetture al giorno, vincendolo perché avevo prospettato non una linea ma 3 linee di saldatura con l'impiego di robot, rendendo le 3 linee flessibili per tipologia e produzione. Comunque, lui ci racconta tutta la sua storia e ci dice: la Cina è molto più avanti di quello che si pensi. L'uso di robot non si ferma all'automobile, ma all'industria dell'imballaggio, piastrelle, alimentare. Ricordo che anni fa i sindacati italiani erano contrari all'uso dei robot. Spiegavo a tutti che l'automazione portava gli operai dalla linea, dove la fatica era molto, a dietro il robot per la manutenzione preventiva, la programmazione, eccetera, eccetera, aumentando la qualifica e il salario. Fin qui la mail dell'ascoltatore è totalmente condivisibile. E poi però conclude e ci lascia di sasso dicendo: comunque sono d'accordo con la tassazione dei robot. Tassazione dei robot, tra l'altro, a mio avviso sarebbe illogica, perché siccome il robot aumenta il valore aggiunto dell'azienda, aumenta gli utili, se lo Stato tassa quegli utili già ne ricava di più. E poi comunque i robot sul medio termine, entro i 10-15 anni, i posti di lavoro li aumenteranno. Il problema è capire che cosa succederà dopo, che cosa succederà a lungo termine, quando avremo i taxi che si guidano da soli, quando avremo i call center che sono fatti dai software, quando avremo i robot che fanno i lavori domestici, quando ci sarà un'automazione di quasi tutto. A quel punto lì ci potrebbe essere la crisi sociale e forse dovremmo prepararci a quella stagione in cui ci sarà una società diversa e pensarla già da ora. Ma sull'immediato i robot aumentano i posti di lavoro anche perché consentono di mantenere le fabbriche qui e consentono anche di fare tornare qui molte fabbriche. Non è un caso che ci sia un parallelismo tra automazione e reshoring: più c'è automazione, più tornano le fabbriche. Il fatto che i robot aumentino i posti di lavoro è provato da quello che succede in Germania, dove c'è la massima automazione in Europa e la minima disoccupazione. Lei che ne pensa, Venturi? Ma sicuramente siamo in una gara a livello mondiale per l'aumento della produttività, quindi l'aumento del valore aggiunto della nostra industria. Come perdiamo battute, la nostra industria viene marginalizzata e chiudiamo le fabbriche. Quindi non possiamo permetterci delle battute di arresto, è vitale questo. Ecco, infatti le aziende devono molto impegnarsi per innovare. Innovare significa ICT, cioè anche innovazione, aumento efficienza e efficacia dentro l'azienda, ma anche innovare fuori dall'azienda, magari grazie alle start-up, no? Esattamente, il mondo a cui dove la nostra industria deve guardare è il mondo dell'open innovation. Open innovation vuol dire non più cercare di inventare le cose dentro i propri muri, dentro i propri capannoni, dentro i propri laboratori, ma cercare il confronto col mondo esterno che sviluppa, e quindi non solo l'università, ma soprattutto le start-up, che spesso sono frutto di fuoriusciti da aziende, parte giovani o universitari o professori con capitale di rischio, perché devono prendere il rischio, e però inventano cose nuove. Le aziende devono guardare le start-up, acquisire delle start-up, includerle e includere quelle tecnologie nella propria offerta. Questa è la strada giusta a cui il nostro paese deve guardare. Ecco, ma in Italia si fanno abbastanza start-up, Venturi? In Italia siamo in miglioramento, ma siamo ancora un paese dove ce ne sono relativamente poche. Sono startup che fanno fatica a fare la cosiddetta app, cioè fanno lo start ma poi non diventano grandi, e soprattutto è un mondo che vive ancora abbastanza separato dal mondo dell'industria locale. Oggi chi fa startup pensa, più che diventare grande, pensa di fare la grande, non tutti ovviamente, ma un buon numero, di fare la grande exit con l'americano, lo straniero che arriva, la compra e fa il grande bingo. E meno questa, possiamo dire, questa contaminazione con l'industria locale. Personalmente, in quanto membro del Consiglio di Presidenza di Asso Lombarda, ho fatto partire un programma Milano Startup Town, dove abbiamo portato le startup in Asso Lombarda gratuitamente. E quante sono adesso? Oggi sono quasi 300, che vengono da noi, hanno gratuitamente tutta una serie di servizi che gli aiuta a diventare grandi, a essere più robusti, a non fare errori, ma al tempo stesso si contaminano con le aziende esistenti. Sì, perché l'azienda esistente così potrebbe, comprando una start-up, avere una fonte di innovazione, anche una mentalità nuova. Forse il problema è che questo è un paese un po' vecchio, no, Venturi? Io penso di sì. Tante volte c'è una frase che io ripeto, che l'Italia è un paese vecchio di vecchi e per vecchi. Sono troppo pessimista? Speriamo di no, dobbiamo migliorare, ci sono comunque gli stimoli e non è solo una questione anagrafica, è una questione anche di mentalità, comunque ci sono delle belle menti in Italia, sia tra i giovani sia tra i diversamente giovani, come spesso amo definire. Sì, ma secondo me però uno dopo i 70 dovrebbe ritirarsi, cioè noi abbiamo troppi vecchi in giro. Questo non... Ecco, cosa ne pensano gli ascoltatori? Fatecelo sapere, fabbrica@radio24.it. Poi abbiamo ricevuto una mail dal lettore Adriano, dal lettore, che io sono troppo abituato a quando facevo la carta stampata che non faccio più, dall'ascoltatore Adriano Giacomini, che è lunghissima, è praticamente un capolavoro letterario. Ci sono anche i suoi sogni in cui lui veniva scaraventato in un futuro non molto lontano, di circa 300 anni. È praticamente un articolo. Se lui ci scrive e ci autorizza, la pubblichiamo sul sito della trasmissione, però deve rimanere in contatto con noi. Senta, invece faccio una domanda a Venturi più su HPE. Allora, domani ascoltiamo la storia di questa Phoenix, la cui architettura tecnologica è stata progettata da voi. Voi avete puntato sull'ibrido, il che vuol dire mezzo cloud e mezzi server proprietari. E loro si sono fatti l'architettura perché tengono molto a monitorare che cosa succede ai loro prodotti quando vanno in giro a farne la manutenzione predittiva. Ma perché c'era bisogno di fare l'ibrido? A che cosa serve per un'azienda di questo tipo? Ma noi di Hewlett Packard Enterprise, ricordo HPE, Hewlett Packard Enterprise, quindi ci occupiamo di tecnologie che stanno nel data center, nelle fabbriche, nelle reti. Mm. Abbiamo messo a punto degli studi e soprattutto delle nuove linee di prodotti molto innovative che guardano al mondo dell'information technology del domani, che è questo qua che abilita la digital transformation. E cosa vuol dire questo? Vuol dire il mondo futuro dell'IT sarà ibrido, non sarà né tutto cloud né tutto presso casa nostra, presso il data center del cliente. Ci sarà un mix, perché ci saranno varie cloud di fornitori diverse, ma ci saranno alcune cose che vanno fatte localmente. Per fare questo bisogna disegnare dei sistemi fatti in modo innovativo che possano colloquiare quei sistemi in cloud, rimanere allineati, gestire la sicurezza, gestire i cosiddetti service level agreement, quindi i tempi di risposta, essere sicuri che le cose avvengano in tempo corretto e soprattutto farlo, questa è la cosa fondamentale, in modo economicamente sostenibile. Il caso di Phoenix, che è un'azienda veramente eccellente, una media azienda italiana tipica di altissima tecnologia, molto innovativa, si stanno trovando a gestire delle complessità, perché questo mondo dell'industria 4.0 porta valanghe di dati enormi che devono essere elaborati, certamente, con intelligenza, però sono tanti, e se lo facciamo con l'IT tradizionale siamo rovinati, nel senso che non possiamo gestirlo, perché l'incremento dei costi è lineare con l'incremento dei dati che mi arrivano. Allora va fatto in modo intelligente, quindi va ridisegnato totalmente come è fatto l'IT. L'IT ibrido è una delle chiavi del futuro, stiamo anche ridisegnando come vengono fatti i computer, abbiamo lanciato la prima serie 2 mesi fa di nuovi server, siamo i primi al mondo ad avere i memory centric computer, tutti i computer del mondo sono CPU centric, questi sono memory centric, tutto serve. Cosa vuol dire memory centric? Vuol dire che la priorità viene data al dato, il dato è al centro, e le CPU intervengono solo per fare le elaborazioni di cui c'è bisogno, possono essere anche un domani remote attraverso dei sistemi ottici ad altissima prestazione, e quindi si può entrare nel mondo del brokering della capacità elaborativa delle CPU, che è quello che aiuterà a tenere basso il costo dell'elaborazione dati, che aumenterà come domanda esponenzialmente nei prossimi anni. Insomma, andiamo verso un mondo migliore? Cosa ne pensate voi di queste fabbriche digitalizzate? Scrivete a fabbrica@radio24.it. Poi comunque io ricordo all'ascoltatore Adriano Giacomini di darci il permesso eventualmente di pubblicare questa piccola novella, storia che lui ci ha mandato. Ringrazio Stefano Venturi, arrivederci. Grazie, arrivederci. Anzi, a risentirci, e domani potrete sentire la storia della Phoenix di cui abbiamo parlato oggi. Buon sabato a tutti!